Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata come sempre l'ultima della settimana, con la poco invidiabile classifica ma anche con le principali notizie come sempre di questa giornata economico-finanziaria. Una su tutte, mi riferisco al consuntivo che oggi è stato diffuso per quello che riguarda il nostro commercio con l'estero. Perché nonostante tutte le difficoltà dell'anno scorso, dazi non solo, la bilancia commerciale, cioè la differenza tra esportazioni e importazioni, è stata ancora più positiva. Questo però, bisogna stare attenti, perché può essere frutto di un calo più rapido delle importazioni rispetto al calo delle esportazioni. La differenza tra quanto abbiamo esportato e importato l'anno scorso è a vantaggio, per fortuna, delle esportazioni nostre, per 53 miliardi di euro. Sono 13 miliardi in più rispetto ai 39, 14 miliardi in più rispetto ai 39 dell'anno scorso. Se leviamo dalla componente i prodotti energetici, dove noi siamo quasi importatori netti, nel senso che non produciamo gas o petrolio se non in modica quantità, beh, avremmo una bilancia commerciale in attivo di 91 miliardi e mezzo. Perché si fa questo calcolo? Perché ti dà la misura di quanto competitivi siano i nostri prodotti rispetto a quello che importiamo, levando la componente che non possiamo esportare, non potremo mai esportare, cioè gas e petrolio, e che invece importiamo in maniera quasi netta. Detto questo, è il più alto come avanzo commerciale mai registrato da quando esistono le serie storiche, 1991. Questo perché la crescita delle esportazioni più 2-3%, pur in calo rispetto al 2018, ha visto appunto un calo delle importazioni dello 0,7%. Quindi l'export ha frenato, nel senso che la crescita è stata più bassa rispetto al 2018, però per fortuna l'import è andato in negativo e quindi la bilancia commerciale ha toccato un nuovo record. Bene le esportazioni verso Svizzera e Stati Uniti, in flessione quelle verso Cina e Germania. Il dato del 2019, quindi chiaramente non incorpora l'effetto coronavirus. Molto bene gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali, botanici, prodotti alimentari, bevande. Sono tutti in forte crescita, anche abbigliamento più 7%. Più 9% articoli in pelle, più 6% alimentari, più 25% farmaceutiche e quant'altro. Però il calo è ancora molto forte negli autoveicoli. Questa è una tendenza tutta europea, meno 8% l'esportazione di autoveicoli nel 2019. Di questo parleremo nella seconda parte del programma, così come commenteremo anche i mercati finanziari, che in questo momento sono deboli, ma niente di grave: meno 0,12% Milano, meno 0,30% Parigi, invariata Francoforte, Dow Jones invariato, Londra meno 0,50%. Tra i titoli segnalo Unipol molto forte oggi, più 6,60%, assieme a Nexi più 4,20%. Unipol ha visto un utile migliore delle attese, l'utile è volato a 1 miliardo e 9 milioni, più 73%, l'aumento del dividendo sarà del 56%, quindi dell'utile distribuito, ed ecco perché il titolo vola, mentre Nexi, continuano le ipotesi di un accordo, sia Nexi, continua a crescere Nexi più 4,30%. Di nuovo invece in difficoltà il settore del lusso, a pochi giorni dall'apertura della settimana della moda femminile milanese, Moncler meno 1,5%, anche Ferragamo perde lo 0,70%. Sappiamo che le preoccupazioni sono tutte legate al coronavirus, e ancora Fiat Chrysler perde anch'essa sui timori dell'effetto coronavirus, l'1,60%. Faccio notare che oggi si è bloccata e sta sospesa la produzione di uno stabilimento di Fiat Chrysler in Serbia perché mancano alcune delle componenti che arrivavano dalla Cina, e sappiamo che il problema è che o non vengono prodotte, come stiamo spiegando da giorni, perché le fabbriche sono chiuse o lavorano a basso regime, oppure hanno difficoltà ad arrivare perché anche le operazioni di imbarco nei porti, per quanto possano essere automatizzate, quando tu stai bloccando l'intera produzione cinese, è chiaro che anche l'attività di logistica portuale ne viene quantomeno rallentata. Allora, dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo, come sempre, sulle notizie in breve. Andiamo rapidamente su quelle di carattere internazionale. Per quello che riguarda, poi parleremo anche di Air Italy, c'è qualche novità. La Cina ha stanziato 3 miliardi e 700 milioni di dollari per il personale sanitario, per migliorare le condizioni del personale sanitario impegnato a contenere l'epidemia di coronavirus, l'epidemia di polmonite causata dal coronavirus. E lo stesso presidente Xi Jinping ha detto che la Cina deve migliorare il suo sistema di risposta e prevenzione delle epidemie, risolvendo i punti deboli e le criticità. Magari mi permetto di suggerire, nella massima modestia, a Xi Jinping magari adottare standard sanitari nei mercati e in generale più simili a quelli europei. Abbiamo molto da insegnare, soprattutto l'Italia, che ha degli standard alimentari tra i più alti al mondo, ai cinesi da questo punto di vista, anche come consulenza, come società italiane, come si producono gli alimenti, diciamo, senza correre rischi. E soprattutto, vabbè, io non so se esistono i NAS in Cina come li conosciamo noi. Comunque, andiamo avanti. Le compagnie aeree potrebbero accusare minori ricavi per 4-5 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2020 a causa delle cancellazioni dei voli sui timori del nuovo coronavirus. Questo lo dice l'International Civil Aviation Organization. Nello scenario peggiore, oggi c'è un rapporto di Intesa San Paolo, la Cina potrebbe crescere meno del 5% contro il 5-8%, nello scenario peggiore potrebbe perdere un punto percentuale di PIL. Ancora, qualcuno mi chiede di Sapelli, dell'uccellaccio, tornerà Sapelli, non c'è nulla, non c'è nessun bando contro l'uccellaccio, anzi lo riavremo a breve. Dunque, per quello che riguarda invece le notizie di carattere economico europeo, vabbè, anche nel quarto trimestre, ma sono dati che ormai abbiamo acquisito e capito, c'è stata una frenata di tutto il PIL europeo, più 0,1%, l'Italia, l'abbiamo già detto, meno 0,3%, penultima in Europa, la Germania fa 0, la Francia fa meno 0,1%, e Finlandia, Italia e Francia sono gli unici in territorio negativo. Però, appunto, come diceva ieri Dalian Grossi, il problema del 2019, dei dati soprattutto degli ultimi tre mesi del 2019, cioè di come siamo entrati nel 2020, è che la crescita è stata molto bassa ed è prevista bassa in Italia dallo 0,3 allo 0,2, ma anche e soprattutto in Germania e Francia, penultima e terzultima, più 1,1%. Cioè sono le tre principali economie dell'area euro e dell'Europa in generale a avere i tre ultimi posti, diciamo, nella classifica di chi cresce. Allora, oggi presentato, in realtà io di contenuti lo dico con massimo rispetto, ho trovato poco. Il piano investimenti al sud pensando ai giovani, l'hanno fatto il ministro Provenzano e il premier Giuseppe Conte, la conferenza per il sud, stanziati 3 miliardi per l'alta capacità e per l'alta velocità anche al sud in alcuni snodi fondamentali. Vogliamo portare l'alta capacità a 4 ore di percorrenza nella tratta tra Roma e Reggio Calabria e migliorare i servizi. Un piano per dare prospettiva ai giovani. Sentiamo un passaggio della conferenza del Presidente del Consiglio Conte sull'obiettivo del Piano Sud. È stato ricordato che quando è iniziata questa esperienza di governo io mi sono presentato in Parlamento e ho chiesto la fiducia sulla base anche di un impegno solenne, rivolto a tutti gli italiani, ovviamente parlavo ai parlamentari, ma parlavo a tutti gli italiani, a tutti i cittadini. L'impegno di rilanciare il Sud, di abbattere le barriere che dividono il Paese, di ridurre gli squilibri territoriali, di arginare lo spopolamento delle aree interne, di fermare l'esportazione delle nostre migliori eccellenze nazionali, i giovani cervelli. Oggi il governo è qui, vedete, non è passato tanto, diciamo, di solito quando si prende un impegno del genere così corposo, insomma, anche noi stessi non pensavamo di riuscire a concretizzare un progetto in così poco tempo. È passato qualche mese. Allora, Air Italy, allora, il mille proroghe, da quello salta almeno per ora la moratoria dell'obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali. Ci ho messo un po' a capirla, cioè c'era una moratoria per dare più tempo, c'era l'ipotesi di dare più tempo a operatori e contribuenti di adeguarsi alle novità contenute in manovre, cioè che se vuoi le detrazioni fiscali devi fare dei pagamenti tracciabili, quindi carte di credito, assegni e quant'altro. Allora, e c'era un emendamento che avrebbe dato più tempo, da quello che si è capito è saltato. L'emendamento doveva portare a far slittare non dal 1 gennaio al 1 aprile l'obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni al 19% su tutta una serie di spese, dalla palestra dei figli al dentista. Ecco, non è slittato ad aprile, quindi da quello che capisco io, dal 1 gennaio chi vuole ottenere detrazioni fiscali deve effettuare i pagamenti non in contanti, insomma, devono essere tracciabili. Non slitta il rinvio per l'RC auto familiare, quindi il 16 febbraio partirà, e poi la moratoria sulle trivelle si allunga di 6 mesi, quindi un emendamento di 5 Stelle ha portato da 18 a 24 mesi la sospensione dei permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi in attesa da parte del MISE e del Ministero dell'Ambiente del piano per la transizione energetica sostenibile. Air Italy, dunque, allora, al momento non è partita alcuna lettera di licenziamento per 1450 lavoratori, lo ha detto la società in una nota ufficiale. Sempre una nota ufficiale di Air Italy dice che i liquidatori sono pronti a sostenere il reddito, adottare misure possibili di sostegno al reddito compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa. Questo perché era circolata la notizia questa mattina che stessero per arrivare a 1450 dipendenti delle lettere di licenziamento. Pochi istanti fa la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha scritto ai liquidatori di Air Italy per formalizzare l'urgente richiesta di cambio della procedura, dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna. E ancora, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha convocato per giovedì 20 febbraio i sindacati della Regione Sardegna e della Regione Lombardia sulla vicenda Air Italy. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo con la poco invidiabile classifica della settimana. Oggi c'è poco da sorridere, ma non è una classifica fatta per sorridere, anzi devo stare attento a non incavolarmi troppo per via della costola, su un paio di notizie in primo luogo che riguardano anche la nostra giustizia. Io so che in questo momento la giustizia, la prescrizione è oggetto di uno scontro politico soprattutto dentro il governo, così, però insomma, anche i giudici possono sbagliare e delle volte quando non capiamo, diciamo, la razza delle sentenze, non è tanto quella del campetto da calcio nell'oratorio di Palermo, ma o sentenze vanno avanti per anni, le mettiamo in evidenza tutto qua, no? Perché insomma, nessuno è al di sopra della legge, ma soprattutto nessuno è al di sopra delle critiche. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La classifica della settimana. Allora, partiamo sempre bassi, che vuol dire anche meno tragici o meno da incavolarsi. Perché? Perché continuiamo a raccontare i casi di giustizia che ci vogliono anni o mesi per stabilire una cosa molto semplice. Ricorderete, ne abbiamo fatti anche recentemente, c'era poi il caso clamoroso dei 16 anni, 7 tribunali, non so quanti giudici, per quello che aveva abbattuto un piccione col Flaubert, col fucile aria compressa da ubriaco, era un avvocato lui stesso, quella fu una causa inimmaginabile. Anche recentemente abbiamo raccontato di casi simili. Ora, questo io vi dico, secondo voi, se siete sciando e venite attaccati da un gallo cedrone, quanto ci vuole in sto paese per sapere, e difendete il vostro, guardate che sembra una barzelletta, ma insomma, rischiate di finire in tribunale se il gallo cedrone attacca vostro figlio e voi con le racchette lo mandate via procurando, mi dispiace per il gallo cedrone, anche qualche danno al gallo cedrone? Sì, certo. E infatti, diciamo, dopo oltre un anno di iter giudiziario è stato assolto martedì scorso, e siamo tutti contenti, dal tribunale di Bolzano un cinquantenne di Borgo Valsugana, accusato di maltrattamento degli animali, perché il protagonista era il gallo cedrone, cioè specie protetta. Che cosa succede? In realtà l'uomo stava sciando nella zona del Monte Pana, in Val Gardena, insieme al figlio, era sulle piste da sci. A un certo momento sbuca sulle piste da sci un gallo cedrone che attacca il figlio. Il ragazzo cade, il padre interviene a sua difesa, viene aggredito a sua volta da sto gallo cedrone che era veramente inviperito. Nel tentativo di allontanare l'animale, io non so come si faccia, quale sia la tecnica corretta per allontanare un gallo cedrone, fatto sta che lui usa i bastoncini da sci e gli dà qualche racchettata al gallo cedrone per mandarlo via. Non è che glielo puoi spiegare diplomaticamente al gallo cedrone che ti sta attaccando. Bene, che cosa succede? Perde sangue al punto di il gallo cedrone da far pensare che potesse essere morto. Un gruppo di persone che stavano pranzando in un chiosco poco distante, adesso nella vita ognuno se qua si facesse anche un po' di più i fatti suoi, interviene in difesa dell'animale e chiaramente denuncia l'uomo per maltrattamento dell'animale. Non sono valse a nulla le scuse, dicendo: guarda, ha attaccato mio figlio, l'ha fatto cadere, ha attaccato me e a questo punto gli ho dato qualche racchettata, obiettivamente le racchettate possono far male. Niente, viene denunciato alla forestale che fa scattare la denuncia. L'11 aprile dell'anno scorso viene iscritto la notizia di reato, in base alla quale la procura chiede l'emissione di una multa da 2.500 euro. A quel punto l'uomo si munisce di avvocati, parte tutto l'iter giudiziario. L'uomo si è opposto del pagare 2.500 euro perché e fa ascoltare il figlio in qualità di testimone. A questo punto si arriva allo scorso 6 aprile. Scusatemi, si arriva allo scorso martedì, dove sostanzialmente l'imputato viene finalmente assolto perché la cornice entro il quale si era svolto l'aggressione del gallo cedrone, ma soprattutto l'aggressione a racchettate dell'uomo, era una sorta di legittima difesa. Ora, lo stesso direttore dell'ufficio caccia e pesca in Alto Adige dice: abbiamo una popolazione di galli cedroni abbastanza numerosa, per carità. È difficile spiegare cosa ci facesse un esemplare in mezzo a una pista. Magari era in situazione di stress, è un animale di grosse dimensioni, abbastanza bellicoso. Ma a me fa impazzire che un paese con tutti i problemi che ha metta. Ma lo stesso voglio dire, massimo rispetto per la procura, ma siamo sicuri che si dovesse andare a dibattere il caso per poi, per fortuna, arrivare alla soluzione? Perché ha chiesto una multa di 2.500 euro. Cosa doveva fare il signore che non ha nome di fronte al gallo cedrone? Parlargli le lingue, trovargli una galla cedrona? Cosa doveva fare quest'uomo? Aveva già il figlio attaccato e lo stesso direttore dell'ufficio caccia e pesca riconosce che è un animale di grosse dimensioni e abbastanza bellicoso. Oh, la domanda intelligente, per carità, la fa un ascoltatore: ma il gallo cedrone poi è morto? No, da come abbiamo ricostruito questa eccitante episodio di giornalismo investigativo a cavallo tra giudiziaria e noir, appariva morto il Gallo Cedrone, ma in realtà poi non era morto. Tutto questo però te la dice lunga sul fatto di un paese che viene intasato, uno non la porta neanche a dibattere una cosa del genere. Non l'hanno beccato in mezzo ai boschi che stava cercando di uccidere un Gallo Cedrone assieme al figlio. Era il Gallo Cedrone che era in mezzo alla pista. Su, ragazzi. Giustamente il Gallo Cedrone ha sempre ragione, scrive un ascoltatore. Qualcuno mi dice: ma le spese poi chi le ha pagate? Ma almeno lui non ha pagato i 2500 euro. Le spese del dibattimento sono a carico della collettività. Le spese per avvocati non lo so, obiettivamente non lo so. Non so se andranno in appello gli amici del Gallo Cedrone. Comunque, dai, andiamo avanti, perché adesso purtroppo da ridere ce ne sarà molto, molto, molto meno. Qualcuno vuole sapere se il Gallo Cedrone è commestibile. Attenzione, il Gallo Cedrone è una specie protetta. Adesso non voglio trasformare Quark, Focus Quark 24, però il problema è una giustizia che, come stiamo raccontando da anni, su alcuni episodi si incista, inizia a avvitarsi su se stessa. Non esiste Granus Salis, e invece no, stiamo parlando di cose leggermente più delicate che ci vorrebbero. Adesso, visto che sul campetto da calcio dell'Oratorio di Palermo vi sarà una nuova espressione della magistratura, invito tutti quelli che vogliono partecipare ai soldi che servono per mettere in sicurezza acustica uno dei pochi oratori, campi da calcio in una zona disagiata di Palermo, l'abbiamo raccontata, servono 20.000 euro. Se volete, adesso ho chiesto a Alessandro Milan di lanciare anche una sottoscrizione, ammesso che qualcuno voglia, per permettere ai ragazzi di giocare in un quartiere degradato dove è un'unica forma di aggregazione, senza che creino troppi danni. Ci mancherebbe al vicinato, ma c'è stata un'espressione, si è espressa anche la magistratura su questo, c'è un giudice che è dovuto intervenire su questo. Parlo del campetto. Allora, ho già detto che non so se si può mangiare il Gallo Cedrone, ma è comunque proibito mangiare un Gallo Cedrone, immagino, essendo una specie protetta. Comunque adesso usciamo dal tunnel del Gallo Cedrone, andiamo sul metro pubblicità e poi, ahimè, andiamo al quarto posto e lì pochi galli, pochi cedroni. Focus Economia. Dunque, andiamo al quarto posto della classifica. Adesso c'è un paese esperto di galli cedroni. Qualcuno mi scrive: è 3 kg, pesa 3 kg, è aggressivo quando è nella stagione dell'amore. Ragazzi, ponete il tema anche al programma che segue. È stato assolto perché il gallo in tribunale non ha cantato, vi prego, adesso con le freddure. No, qualcuno si ricorda invece che questa giustizia assurda che ogni tanto commentiamo ci portò due settimane fa, se non ricordo male, a raccontare anche del dissequestro, cioè di un dissequestro operato dal tribunale dopo che era stato indagato un signore di Verbania che era tornato dalla Sardegna con una tartaruga, che già lì uno andrebbe guardato bene. Aveva sbagliato nella denuncia della tartaruga a inserire il nome della tartaruga, era stato accusato, indagato, poi la tartaruga sequestrata. Dopodiché i carabinieri, visto che è stato assolto, sono andati a notificare il dissequestro della tartaruga. Due carabinieri che vengono utilizzati per dissequestrare la tartaruga, con il piccolo problema che la tartaruga in inverno dorme e quindi il dissequestro non si è potuto fare, tutto vero purtroppo, perché la tartaruga non era, diciamo, presente a se stessa e quindi dovrà attendere di uscire dal letargo. E meno male che non sarà a Porto un orso dal Trentino sto qua, perché sennò il letargo dell'orso, cioè questo è il paese, capisci? Allora andiamo, ma per favore, tutto vero, guardate, non ci inventiamo nulla, andiamo avanti. E qui c'è poco da ridere, anche se allora io sono contento, lo dico senza ironia, che il sindaco Raggi oggi a Roma abbia annunciato che il comune di Roma ha ottenuto i fondi del MIT, del Ministero dei Trasporti, per 500 milioni di euro per i trasporti. Sono veramente contento. Raggi ha detto però, e qui resto un pochino più così spiazzato, che questo permetterà l'acquisto di due nuovi tram, Togliatti e Tiburtina, e le funivie Battistini Casalotti ed Eur Magliana Villa Bonelli. Ora, io abbiamo avuto l'inverno più caldo della storia le funivie non servono un po' neanche più in montagna. Io ricordo che la Raggi presentò l'ipotesi delle funivie per Roma, funivie. Faccio notare, non ho niente in contrario alla funivia a Roma. Forse questi soldi prima delle funivie, poi come si fa con lo ski pass, senza ski pass, non lo so, prima delle funivie bisognerebbe sistemare qualcos'altro, perché andare avanti col progetto funivie Battestini Casalotti e Ormagliana Villa Bonelli, ma poi quanto sta in funivia uno? Non ho capito bene se sia così prioritario rispetto a quanto sto per dire, perché dopo un anno, cioè, capito, in Cina fanno gli ospedali in 10 giorni, noi per sistemare la scala mobili della stazione Barberini, chiusa perché era ceduta, ci abbiamo messo un anno. Il 23 marzo 2019 viene chiusa, è stata riaperta e finalmente il 4 febbraio tutti contenti. No, perché non è stata completamente riaperta, è stata riaperta solo in uscita, cioè l'unica stazione della metropolitana al mondo in cui non puoi entrare. Sembra un fumetto di Dylan Dog, una quarta dimensione. Non puoi entrare, puoi solo uscire. E infatti io immagino se tu sei in asiatico, con tutto quello che ti costa arrivare qua in sto periodo, arrivi finalmente a Roma, vuoi entrare alla stazione Barberini, non te ci fanno entrare, si può solo scendere per motivi di sicurezza ma non salire. Tra l'altro ricordate che per alcuni mesi era stata chiusa anche la fermata successiva a Repubblica, obbligando i passeggeri a saltare da Piazza di Spagna a Termini, perché stiamo parlando di stazioni metropolitane fondamentali per il centro storico di Roma. E il sindaco Raggi dice: avremmo voluto far prima perché un anno di lavori è davvero troppo, però abbiamo dovuto fare controlli approfonditi mai fatti prima, e quindi per ora si può solo uscire e non entrare da Barberini. Magari potremmo fare il senso alternato, in alcune ore esci, in altre entri, e chi sta dentro, cavoli suoi. Ma faccio notare che prima di arrivare alle funivie a Roma, col massimo rispetto per le funivie, c'è la fermata Furio Camillo, che a me ricorda Verdone nel mitico Furio, però Furio Camillo, dove si è decisa una cosa innovativa a livello di metropolitana in tutto il mondo, il contingentamento. Cioè, che cosa è successo? Si sono improvvisamente accartocciati i gradini domenica sera scorsa, e quindi l'ATAC ha ordinato il contingentamento. Non potranno essere presenti più di 450 passeggeri per volta, perché è rimasta con 3 scale mobili, la quarta appunto si è accartocciata. Allora, attivazione immediata delle procedure di contingentamento. Con attivi solo 3 impianti di traslazione su 4, cioè scale mobili, è possibile far accedere in banchina solo 450 persone, ma giustamente corrispondenti a circa metà di una banchina o un quarto di 2 banchine. Metà di una banchina è in effetti un quarto di 2 banchine. È bello quando scrivono queste cose, no? E quanto di 4 banchine? Facciamo il test tipo a scuola. Ma è tutto vero, sto leggendo testualmente. Con attivi solo 3 impianti di traslazione su 4 è possibile far accedere in banchina solo 450 persone, corrispondenti a circa metà di una banchina o a un quarto di 2 banchine, o a un ottavo di 4 banchine, direi io. Se mai si legge nell'ordinanza dovesse essere raggiunto quel numero di passeggeri, gli operatori di Furio Camillo scatteranno sulle attenti chiusura dei varchi. Non ho capito se uno è il 451esimo, cosa è lì, fino allo svuotamento della banchina, che non è il massimo, cioè svuotamento, prenderanno metropolitana. Tornelli bloccati, occhi puntati sulle telecamere. Scatterà un doppio messaggio vocale, uno per comunicare che la stazione è momentaneamente chiusa al pubblico in attesa dello sfollamento delle banchine, già veramente angoscia, spero che sia anche in inglese. L'altro per annunciare la riapertura, quindi la stazione è adesso riaperta al pubblico grazie allo sfollamento delle banchine. Si legge ancora nel documento: in caso debba uscire un disabile durante la fase di contingentamento, per l'esodo verranno utilizzati l'esodo, cioè, biblici, ma che è? Mosè, non è una fermata della metropolitana, questo manca solo le acque, il Mar Rosso, le cavallette. Per l'esodo verranno utilizzati i cancelli antipanico, lasciando il varco disabili inibito. E anche qui io mi fermo, perché il mio italiano, cosa vuol dire lasciare il varco disabili inibito? Era un po' inibito, resta inibito? Era disinibito? Ma almeno l'italiano, quando scrivete un'ordinanza, gli impianti di traslazione, io sfido chiunque a capire che è una scala mobile, l'impianto di traslazione. Il varco disabili inibito, cos'è? È un giudizio su come si comportava il varco disabile? Era troppo disinibito, adesso è più inibito? I responsabili della fermata di Furio Camillo Poss, manca solo Magda, possono chiedere rinforzi all'azienda e poi incrociare le dita perché in caso di fuori servizio di un secondo impianto di traslazione, cioè della seconda scala mobile, a questo punto la stazione deve essere chiusa al pubblico in attesa del ripristino degli impianti. E quindi, se c'è un altro guasto, si blocca Furio Camillo. Immaginate l'autoparlante, la stazione momentaneamente chiusa al pubblico in attesa dello sfollamento delle banchine. Se ne ha banchina, ti vedi già da lo sfollato della banchina. Andiamo sul traffico e poi andiamo al terzo posto, dove c'è ancora meno da ridere, perché parliamo di disabili, proprio degli ostacoli ai disabili in molti servizi pubblici su cui tutti noi paghiamo le o dovremmo pagare le tasse. Focus Economia. Allora, terzo posto, si vede che c'è una specie di dissonanza cognitiva, di disorientamento negli ascoltatori, perché uno mi scrive: beh, guardi che tra il gallo cedrone sulla pista e le funivie a Roma non fa una piega. In effetti esiste una specie di fiducio involontario. Qualcun altro mi sta dicendo: guardi che è una follia quella delle funivie. Però adesso, un attimo, andiamo con ordine, perché? Disinibito, mi avete spiegato che inibito vuol dire, l'ho capito anch'io, però perché io non capisco perché il burocrate debba scrivere in quel modo, forse per non farsi capire. L'uscita disabile resterà inibita, vuol dire che non si può utilizzare, e scrivi che non si può utilizzare, santo Dio. Allora andiamo al terzo posto, e qua invece mi irrito. Allora, qui parliamo dei disabili. Qualcuno mi scrive sempre: ah, ecco, vedi, alle 17:40 lei attacca sempre 5 stelle, e lei alle 17:40 evidentemente non attacca qualcos'altro, cioè non attacca il cervello. Non ce l'ho con i 5 stelle, ma se il sindaco è la Raggi, cosa devo fare? Chiamarla con un altro nome? Allora, sulle disabilità, per esempio, non c'è solo un problema della Raggi o no, anche se la Corte dei Conti è intervenuta sull'ATAC, perché ha chiesto al Campidoglio di contattare la sua municipalizzata e farsi consegnare tutti gli atti necessari a stilare un report dettagliato per capire come mai vi siano stati così tanti disservizi proprio per portatori di disabilità, che l'ATAC è stata condannata per condotta discriminatoria nei confronti dei disabili molte volte. Una volta un risarcimento da 1000 euro per il montascale rotto alla stazione Flaminio, un'altra 2500 euro di multa alla fermata perché mancava il montascale alla fermata Cinecittà. E quindi l'ATAC sta pagando soldi di risarcimenti giusti ai cittadini, e la Corte dei Conti ha detto: mi fate capire perché cavolo ci sono così tante cause, come state gestendo tutte, diciamo, la parte che riguarda l'accesso di chi ha disabilità, no? E nei dossier andranno elencati tutti gli indennizi versati a favore dei soggetti disabili a causa del malfunzionamento di ascensori, montascale, carrelli elevatori, rampe mobili installate nella stazione della metropolitana. Si dovrà chiarire anche l'aspetto della mancata predisposizione di personale in grado di garantire il funzionamento di detti ausili. Sabato scorso erano fermi in montascale delle fermate Anagnina, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Porta Furba, Colli Albani e Lepanto sulla linea A, e la stazione Colosseo sulla linea B, cioè i montacarichi per chi ha la carrozzina non potevano essere utilizzati. Ora lo dico col massimo rispetto, sindaco Raggi, sti soldi che le sono arrivati, forse non è il caso di sistemare i montascale, gli ascensori, le scale mobili delle fermate esistenti, e pensare in un altro futuro, magari anche in un'altra vita, in un altro pianeta, alla funivia a Roma. Chiedo. C'è Dario Di Francesco: il sedia a rotelle è rimasto prigioniero nella stazione policlinico della linea B e una seconda volta alla fermata Furio Camillo della tratta A, che anche quello ha fatto causa. Ma non è un caso solo romano, ecco perché è inutile dire che ce l'ho con i 5 stelle. Allora, a Torino è successo che un papà ha dovuto prendere in braccio la figlia, che ha 46 anni, deve stare in carrozzina, quindi ha detto lui stesso che ha fatto un'operazione molto rischiosa, e quindi ha lasciato sotto la sedia a rotelle, se l'è messa lui in braccio. Ha detto: è la prima volta che la prendo in braccio per le scale. Non invito nessuno a ripetere quello che ho fatto io, soprattutto se non si ha pratica si rischia di far male a chi è costretto sulla sedia a rotelle. Che cosa è successo? Semplicemente, per l'ennesima volta si era bloccato un ascensore dove alla stazione Vinzaglio, e dice il padre: più che rabbia, incredulità, sono impianti nuovi, ma a lungo andare cosa succede? Fra qualche anno saranno tutti fermi, una volta si fermano per le foglie, una volta per il freddo, ce n'è sempre una, e meno male, aggiungo io, che non ci sono più le mezze stagioni. Ma andiamo avanti a Civitavecchia, stazione Civitavecchia. Non c'è la rampa per scendere dal vagone del treno e una donna disabile resta bloccata sul convoglio fermo a causa di un guasto per 2 ore. Il treno non freccia bianca di Trenitalia diretto a Roma, si è fermato al binario 3 della stazione Civitavecchia, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere tranne la donna in carrozzina, che è rimasta per 120 minuti in attesa che i vigili del fuoco l'aiutassero a scendere dal convoglio. Il carrello elevatore è presente in stazione, ma può essere utilizzato solo sul binario 1 e non sul 3, e anche lì uno si fa una domanda sul capostazione, e non è mai colpa di nessuno in questo paese. Però intanto la signora, che già ha un suo problema, una sua disabilità, resta 2 ore, devono arrivare i vigili del fuoco per far scendere la signora da una stazione italiana della rete ferroviaria italiana nel 2020. Chiederò al più presto alla rete ferroviaria italiana di attrezzare la stazione per renderla finalmente adeguata e dare un senso di qualità alla nostra città. E vabbè, questo è il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, allertato dalla prefettura a cui era stato segnalato l'accaduto degli agenti della Polfer. Non deve più ripetersi, ho portato la donna al mio conforto, insomma. Quindi inviterei tutti, diciamo, a dare un minimo le priorità sugli investimenti e evitare di raccontare un paese in cui una si blocca, cioè un treno perché si ferma a Civitavecchia, la signora resta 2 ore sul treno. Ecco perché c'ho poco voglio di ridere quando faccio questi passaggi, ma men che meno ne avrò, quanto manca, 30 secondi? Dopo il GR24 per il secondo, oddio il secondo, qualcuno l'ha già immaginato, il primo posto invece mi fa incavolare come una biscia argentina. E non vorrei che ci fosse una tentazione nelle varie categorie, si dice giornalisti, non, cane non mangia cane, no? Ecco, non vorrei che i magistrati delle loro delle volte si tutelassero la vicenda, perché la vicenda che sto per mettere al primo posto è oggettivamente inspiegabile. Però c'è il GR24 dopo il GR24. Focus Economia. Diciotto e sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per il secondo e primo posto della classifica. Sul secondo andiamo veloci, alcuni di voi l'hanno già immaginato. Allora, grande successo di ascolto, di share del Festival di Sanremo, benissimo, molto contenti tutti. Però siccome la RAI viene pagata, io non amo parlare di, diciamo, dei concorrenti, ma viene pagata dei soldi nostri in bolletta, allora è anche giusto da contribuente chiedere un pochino, secondo me, più di sobrietà. Il tema lo sapete benissimo. Quest'anno, in occasione di Sanremo, si sono trasferiti tra dirigenti, collaboratori e familiari al seguito 634 persone come dipendenti RAI, più altri 200 collaboratori che lavorano alla kermesse, pur non essendo assunti dalla TV di Stato, circa 800 persone. Allora, la maggior parte di questi ne ha titolo, ma non tutti. C'è stata un'interrogazione parlamentare del deputato PD Michele Bordo, una richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri Rita Borioni e Riccardo Laganà, il ministro legato Fabrizio Salini, e sta indagando il collegio sindacale della RAI, che dovrà riferire al Tesoro, quindi al ministro Gualtieri. Per avere dettagli ulteriori bisognerà aspettare il consiglio di amministrazione del prossimo 21 febbraio. Va benissimo che fossero, nelle vecchie gestioni non si era più stati in prima fila o quant'altro, ma i vertici della RAI. Però faccio notare che, insomma, lo staff del presidente Marcello Foa era composto da 4 persone, il presidente e sua moglie, poi, e vabbè, fin qua per carità tutto bene, ma accompagnati da Marco Ventura, Pierpaolo Cotone, Margherita Ghinassi e Fenesia Calluso. Vorrei sapere a quale titolo, così come lo chiedo veramente come domanda. Il direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, massimo rispetto, ma cosa c'entra Rai Parlamento con il Festival di Sanremo? La direttrice dell'Audit, Elisabetta Gandini, il corrispondente da Bruxelles, Alberto Romagnoli, anche addetti al servizio immobiliare di Viale Mazzini. Ora, questo arriva come polemica a 2 mesi dalla notizia che abbiamo dato anche noi, di un'inchiesta su 50 dipendenti RAI, perché nell'edizione del Festival di Sanremo del 2013-2015 sono accusati di aver fatto false fatturazioni e scontrini gonfiati. Però io dico una cosa, perché ho una proposta. Siccome 634 persone di interni, 634 interni, più i 200 collaboratori che immagino invece quelli lavorino, non sono assunti. Posso dire, proporre, non se la prenda il sindaco di Sanremo, ma trasferite il Festival di Sanremo a Roma. Mi sembra la cosa migliore, si chiama Spending Review. Così, invece che trasferire 800 persone che lavorano, 634 persone che lavorano alla RAI di Roma a Sanremo, con relativi biglietti, alberghi e ristoranti, facciamo tutto in house, lo continuiamo a chiamare Festival di Sanremo, ma trasferiamolo a Roma. Dai, evitiamo almeno questo, visto che sono soldi pubblici. Oh, adesso sto per andare al primo posto, ma speravo, c'è una specie di breaking news nella classifica, non era mai successo, perché abbiamo dato in apertura la notizia dell'incontro, della presentazione del piano per il sud del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro Provenzano. Tutto bene, spero che i soldi vengano veramente sbloccati, 2 miliardi per l'alta capacità, alta velocità. Però se il buongiorno si vede al mattino, Presidente del Consiglio Conte, lei in questo momento ha un periodo molto difficile, ci mancherebbe, la maggioranza che litiga come non mai, però si sono accorti che il manifesto, ce l'ho sotto mano, guardate, il manifesto del piano per il sud ha nell'immagine, cioè il mare, uno scoglio, potevano sembrare i faraglioni, una foto presa da uno scoglio, cioè da un... Che una foto che mostra il mare con uno scoglio, e che già voglio dire, l'immagine del sud, il piano per il sud, siamo sempre al sud del mare, del sole, ma al di là di questo hanno sbagliato l'immagine, è il castello di Duino di Trieste, ma fate un piano per il sud, mettete in copertina, c'è la brochure, ce l'ho, purtroppo è vero, ma chi ve l'ha fatta sta copertina? Ma se il buongiorno si vede al mattino, io devo credere a un piano per il sud in cui chi deve redigere il piano per il sud mette la foto di Trieste. Chiamatelo piano per il nord a sto punto, così tenete la foto. Il ministro Provenzano ha detto: è un progetto per l'Italia. Ma dai, ministro, lasciamo stare, per favore. Peso il taccone del buso, avete cannato l'immagine, il piano per il sud, il castello di Duino, il mare di Trieste. Allora, sì, qualcuno suggerisce di portare a Roma il festival di San Remo, di San Romolo. Vabbè, adesso. Oggi la giornata delle freddure. Qui invece c'è poca freddura. Andiamo al primo posto in classifica. And the winner is... Allora, io vorrei capire una cosa, nel massimo rispetto della Cassazione, dei magistrati, della giustizia e di tutto quanto, no? Però c'è qualcosa che non torna. Il procuratore generale della Corte di Cassazione, Mario Fresa, ha respinto e ha chiesto ai giudici di respingere il ricorso dei figli di Marianna Manduca. Chi sono? Allora, sono due minorenni e un maggiorenne. Praticamente la vicenda, guardate, è incredibile. Marianna Manduca viene uccisa a 32 anni, era nata e cresciuta a Paragonia, in provincia di Catania, il 3 ottobre del 2007, da suo marito, Saverio Nolfo, poi condannato a 21 anni di carcere. Che cosa succede? Che quella non fu un'esplosione di ira, non per giustificarla, ci mancherebbe, ma è, ahimè, come spesso vediamo nei casi di femminicidio, fu l'epilogo di un dramma che andava avanti da anni. Botte, minacce, umiliazioni, anche davanti ai suoi tre bambini. La donna lo denuncia non una volta, ma 12 volte, ecco perché è importante, 12 volte. Però non era ancora in vigore la legge sullo stalking, è vero, ed era più difficile arrivare alle misure del carcere per i reati che ogni volta la povera Marianna denunciava, ma non furono presi provvedimenti dal tribunale di Caltanissetta nemmeno quando lui le mostrò un coltello a serramanico. Ora, quella scena non fu considerata minaccia a mano armata, reato per cui a quel tempo comunque si sarebbe potuto procedere all'arresto. Alla fine lui l'ha uccisa veramente. La cosa incredibile è che poi attorno ai tre figli si crea il vuoto. Ci sono dei cugini che abitano in un'altra parte, che hanno già due figli e non hanno una grande disponibilità economica, ma fanno un atto secondo me eroico. Adottano i tre figli di Marianna, di Marianna Manduca, e però avviano anche una causa contro lo Stato. E formalmente la causa è contro la Presidenza del Consiglio, perché a loro dire non era stato capace di proteggere una donna disperata che chiedeva aiuto. Il tribunale di primo grado, ecco perché bisogna stare attenti quando si parla di prescrizione. Il tribunale di primo grado stabilì che era così, in questo caso la procura di Caltanissetta, chiedo venia ai giudici di Caltanissetta. Stabilì che la procura di Caltagirone, non avendo disposto alcun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati e non avendo adottato nessuna misura per neutralizzare la pericolosità del Nolfo, aveva commesso grave violazione di legge con negligenza inescusabile, e quindi i magistrati avevano, secondo la sentenza, avevano sbagliato e i figli andavano risarciti, e infatti vengono risarciti con 200, non riesco più a trovare la cifra, 250.000 euro, adesso la troverò, 259.000 euro. Che cosa succede? I giudici di secondo grado, cioè la Cassazione, ribalta tutto, dicendo in sostanza che l'uomo era così determinato nel voler uccidere Marianna che l'omicidio non poteva essere evitato. Ora, è un concetto un po' pericoloso. Leggo testualmente: dato il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di un'arma simile, non avrebbero avuto effetto né l'interrogatorio di lui né una perquisizione a casa sua per scovare il coltello. Ritiene quindi la Corte che l'epilogo mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato. Ora, a parte che gli avvocati dicono: scusi, c'erano minacce di morte, mano armata, 12 denunce, questo col coltello. E dice l'avvocato: ma insomma, se io andassi per strada con un coltello a serramanico a minacciare il primo che passa, sono certo che in quei pochi minuti mi arresterebbero. Allora, ma è un po' interessante il concetto che stabilisce la Corte di Cassazione, cioè quando il radicamento del proposito criminoso è così forte, non vale la pena intervenire? Ma cosa vuol dire? Che se io sono veramente intenzionato a rapinare una banca o a commettere un reato, nonostante le denunce, attenzione, sta per rapinare la banca, tu non intervieni perché io sono fortemente intenzionato, se voglio uccidere qualcuno e lo minaccio di morte, siccome la mia è un'intenzione fortemente radicata, tu, nonostante 12 denunce, il tribunale di Caltagirone non ritiene di procedere neanche a un interrogatorio, niente, magari non sarebbe cambiato nulla, ma con questo principio non facciamo più una mazza a sto punto, dico col massimo rispetto al procuratore generale della Corte di Cassazione, e non so se questa mia intemerata piacerà all'avvocato Malavenda che mi sta difendendo su varie denunce proprio per la classifica anche in Sicilia, perché tutti sono pronti a denunciare querela per diffamazione. Ok, però voglio dire, c'è qualcosa che non torna. Adesso sapete cosa hanno deciso? Che i figli, che nel frattempo sono cresciuti, devono ridare allo Stato 259.000 euro più gli interessi. Nel frattempo i genitori adottivi, che si sono fatti carico di 3 figli in più, pur avendo condizioni anche non particolarmente favorevoli, hanno usato i soldi per acquistare un bed and breakfast, che la famiglia si chiama famiglia Calì, e l'unica fonte di reddito, da una mano anche Carmelo, il figlio maggiorenne di Marianna, che ha voluto chiamarsi Calì, ha rifiutato il cognome del padre. Sentite cosa ha detto Carmelo Calì, che con la moglie Paola ha adottato i figli, al microfono di Alessandro Milan a Uno Nessuno e 100 Milan. I giudici all'epoca erano stati giudicati colpevoli per non aver aiutato Marianna, e quindi è stato riconosciuto questo risarcimento di 259.000 euro, che sono, se lei pensa al danno che hanno provocato, sono anche pochi. È un'inerzia a confronto a quello che poi i ragazzi hanno dovuto patire. Immagino che questo risarcimento potesse servire a crescere 3 figli, accidenti. Fortunatamente credo che mia moglie siamo delle persone abbastanza capaci o corrette, diciamo, nel gestire queste cose. Abbiamo pensato bene di comprarci una casa e farci un B&B, quindi ci dava un reddito, se non altro, un po' più serio di quello che in quel momento ci offriva il mercato lavoro. Quindi tutto sereno, insomma, sì. Fino a che poi non è arrivato l'appello. Ora lo Stato rivuole indietro i soldi. Diciamo che il danno che viene fatto non è solo ai miei figli o a Marianna, che aveva il diritto di avere una giustizia, ma viene fatto a tutte le donne che sostanzialmente subiscono violenza o vengono ammazzate. In sostanza, diceva la sentenza che nulla si poteva fare per fermare questa persona, perché in qualsiasi caso l'avrebbe ammazzata. Il problema, ripeto, è sostanzialmente questo, che se dovesse passare la sentenza d'appello e vincono loro, qui è una cosa veramente grave, ma soprattutto è grave perché lo Stato ancora una volta si fugge di fronte a un problema così grande. Sì. Allora io la domanda che mi viene da farmi è questa: ma come è possibile una roba del genere? Cioè, lo Stato allora a cosa serve? Guardate, io non faccio nessun applauso perché non ho niente da applaudire. Io trovo di una dignità incredibile Carmelo Cali, la moglie Paola Cali, scusatemi, che tra l'altro appunto nel 2007 poi hanno adottato, pur non avendo le condizioni economiche, i tre figli. Non li voleva nessuno, cioè si era creato il deserto attorno a quella famiglia. E trovo di una dignità enorme. Mi chiedo, perché il sospetto, nel massimo rispetto, poi mi quereleranno anche per questo, ma il sospetto che, diciamo, la magistratura non voglia attaccare la magistratura stessa, nasce perché se in primo grado viene rinvenuta la colpevolezza del tribunale di Caltagirone, che dopo 12 denunce, una di quali con minaccia, con il coltello, non si è mosso di un millimetro, neanche per, ma ho capito, con la motivazione in Cassazione che tanto quello era così determinato che poco sarebbe servito qualunque intervento. Eliminiamo polizia, carabinieri, guardia di finanza, perché se uno vuole spacciare è determinato che serve intervenire, gli interrogatori, qualunque cosa, e quindi le donne sappiano che secondo la procura, il procuratore generale della Corte di Cassazione e questa sentenza, se il marito è molto determinato nel commettere un omicidio, per come la capiamo, poi vedremo le spiegazioni, è inutile l'intervento della magistratura. 12 denunce, e infatti i soldi devono pure ritornarli, ma qui non va a remengo la logica e basta, va a remengo l'idea stessa di uno Stato che, cioè, abbia un minimo di canon salis. Ma ci rendiamo conto? Ma tu dovresti fargli un monumento a questa famiglia che si è presa tre figli a carico, non li voleva nessuno, non obbligare a restituire dopo 12 anni 259.000 euro con gli interessi. C'ho le palle che mi girano, vado sul traffico e la startup la facciamo un'altra volta. Adesso chiederò scusa a Vanare perché non ce la posso fare la startup così. Focus Economia. Allora, mi calmo. Guardate che Mario Fresa è il procuratore generale della Corte di Cassazione. Quello che io trovo allucinante, riferito a quella sentenza, è da un lato che in primo grado era stata ritenuta colpevole la procura di Caltagirone per non essere mai intervenuta con 12 denunce, di cui una con una minaccia del coltello. Sono gli stessi giudici che in primo grado dicono che lo Stato deve risarcire 259.000 euro agli orfani di una madre che per 12 volte va allo Stato, va in quella procura a denunciare un marito che poi finalmente la uccide. Ma cosa deve fare una procura per essere messa sotto inchiesta per cattiva gestione o sottovalutazione di un rischio? Tant'è che i colleghi stessi dicono: eh no, cara procura di Caltagirone, hai sbagliato, hai sottovalutato la minaccia. Ma arriva la Corte di Cassazione e ribalta tutto, perché tanto non dice che la minaccia non ci fosse, dice l'opposto, era talmente determinato ad ammazzare la moglie che a poco sarebbero servite, leggo testualmente, non avrebbe avuto effetto nell'interrogatorio di lui né una perquisizione a casa sua per scovare il coltello. Non facciamo più niente. Tanto se uno è mafioso e vuole, diciamo, è così determinato a essere mafioso, è inutile fare intercettazioni, perquisizioni, controlli, quant'altro, interrogatori, ma perché? Qualcuno dice: ma non può intervenire Mattarella, il CSM, sì, appunto. Vabbè. Oh, Marco Fortis, non so come, volevo commentare con lei i dati di oggi sul commercio con l'estero. Adesso buonasera Marco Fortis. Buonasera. Docente di economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison. Allora la dico e poi lascio lei il commento. Abbiamo fatto un avanzo di export incredibile, quindi la differenza tra quanto abbiamo esportato e importato è per 59 miliardi, il più alto mai registrato, nonostante, perché le importazioni sono calate dello 0,7 e le esportazioni del 2,3% sono invece aumentate. Questo nell'anno della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti e nonostante il tonfo anche in Italia delle esportazioni di automobili -8%. Che cosa ci dicono questi dati? Adesso mi taccio così mi riprendo anche. Prego Fortis. I dati ci dicono che il nostro surplus certamente è aumentato per questo effetto combinato di aumento dell'export e di calo dell'import, che già fa capire che c'è un minore import di materie prime, visto che siamo entrati in una fase di stagnazione. Tuttavia, avere un surplus così grande e averlo ormai da così tanto tempo è importante perché permette all'Italia di acquisire crediti sull'estero e di ridurre la sua posizione finanziaria negativa, cioè il debito estero del nostro paese. In più significa che le nostre imprese dal lato dell'export sono molto competitive. Non bisogna esaltarci perché il più 2,3% del 2019 sul 2018 è un dato che è comunque in rallentamento, però in un anno così difficile alcuni settori, in particolare il farmaceutico, che ha brillato verso quasi tutti i paesi, ma anche il settore alimentare, quello della pelletteria, sono andati molto bene e hanno trainato le esportazioni. Si tenga conto che invece proprio per la natura della crisi europea, in particolare della Germania, e del rallentamento anche del commercio mondiale, la situazione della Cina, c'è stato un minore export di macchinari, mezzi di trasporto rispetto a quanto non avvenuto in precedenza. Cioè hanno sofferto di più i prodotti tecnologici, i macchinari, perché ovviamente c'è un rallentamento degli investimenti su scala generale. Senta Fortis, per concludere, è ancora molto presto, noi stiamo facendo, continuiamo a fare il viaggio nei vari settori, i rischi sul coronavirus. Alla fine lei, che sono molto, che conosce bene i nostri comparti, è molto presto per definire l'impatto, ma soprattutto lei vede nel nostro modello di export la capacità poi di essere un po' più agile rispetto ad altri, penso quello tedesco, e riposizionarsi su altri mercati qualora le cose invece in Cina dovessero continuare a essere gravi? Ma sicuramente noi abbiamo un export estremamente diversificato e quindi non siamo appiattiti su singoli prodotti che possono risentire di questa congiuntura del coronavirus. Bisogna vedere quanto durerà comunque il fenomeno, perché questo ci dirà molto sul fatto che possa avere un impatto più o meno breve, se non invece lungo, sull'economia. È chiaro che se mercati di consumo e il turismo stesso implodono per certi aspetti, cioè girano meno cinesi, meno persone acquistano il lusso italiano non solo all'estero, ma soprattutto con il turismo, alcuni settori come quello del lusso possono risentirne. Ma anche gli investimenti, però, perché in questo momento in Cina c'è una paralisi non solo della produzione ma anche della logistica. Ma anche della logistica, come raccontavamo prima. Professor Fortis, la riavremo oggi, la puntata è stata un po' particolare. A chi continua a scrivermi della vicenda allucinante, io dico che secondo me non si sarebbe neanche dovuti arrivare in Cassazione, cioè lo Stato, quando sbaglia nella figura, diciamo, giuridica della procura di Caltagirone, deve ammettere lo sbaglio, risarcire e basta. Invece si è andati pure in Cassazione e la Cassazione ha anche ribaltato la sentenza chiedendo i soldi indietro. Uno Stato serio, quando sbaglia nel suo organo come la magistratura, non va neanche in Cassazione. Cioè, ci sono 3 orfani e una donna morta dopo 12 denunce. Comunque, adesso basta. Buon fine settimana a tutti, un ringraziamento a Barbara Bianchi, ci risentiamo lunedì alle 17:00.